essere che passo se non sei con me, sempre qui. Forse non so dove andare da solo così, che si fa? È l'amore che mi prende piano piano per la mano, mentre l'acqua dietro i vetri già discende. Stare da solo così, senza te.